di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per quest'ultima puntata della stagione di Zibaldone, che è dedicata a che cosa? Lo capirete immediatamente. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Ai, ai, ai, ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, ai, ai. Poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Vabbè, no, non parliamo di luglio, lo sapete, ma questa è praticamente, Banzo, bentornato e buon pomeriggio, la sigla del nostro speciale con cui chiudiamo ogni stagione ormai di Zibaldone da 8 anni, perché è l'ottava edizione delle canzoni dell'estate. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, è proprio così, credo che, l'ho detto anche l'anno scorso, ma credo che Luglio di Riccardo Del Turco sia la canzone che abbiamo trasmesso più volte in tanti sì. anni di programma, e credo che lo dirò anche l'anno prossimo se andiamo avanti così, e addirittura la settimana scorsa ne abbiamo proposto una versione in francese, un po' per preparare il terreno, anche se parlava di prodotti da forno, ecco, andate a recuperare la puntata. Comunque è stata una bella variazione. Siamo arrivati comunque all'ottavo capitolo di questa saga, le canzoni dell'estate, siccome è una delle stagioni più gettonate fra le quattro, ecco, forse ce ne sono meno sull'autunno, non lo so, la speranza è di poter proseguire ancora a lungo, e farò solo una breve specifica. Ecco, di solito cerchiamo di includere canzoni che non sono necessariamente successi dell'estate e magari non contengono un riferimento testuale o nel titolo alla stagione, ma appunto cerchiamo sempre di presentare un qualche riferimento diretto, e diciamo che a volte si tratta solo di un'illusione anche fuorviante dalla quale ci lasciamo trasportare per divagare piacevolmente nel mare della musica con un sacco di varianti possibili, delle scalette fantasiose, che non è una cosa scontata trattandosi della stagione dei coi peggiori tormentoni in assoluto, senza dubbio. Rimaniamo quindi, per cominciare subito le danze, negli stessi anni 60 in Italia, però insomma Riccardo Del Turco cantava Luglio e la portava al successo nel 68, qui andiamo nel 64 e troviamo Gino Bramieri con questa Non gettarmi la sabbia negli occhi. L'estate è tornata per noi, gridando più calde parole, sulla sabbia bruciata dal sole. Io ti guardo ripetendo in un sospir, non gettarmi la sabbia negli occhi, perché sai che la sabbia fa male. Nella sabbia in riviera c'è il sale e lo iodio che brucia di più. Non gettarmi la sabbia negli occhi. Spendo tutti i miei soldi in collirio, t'amo tanto, ogni giorno è un delirio, ma ogni notte mi brucia di più. Sono buono, tranquillo, paziente, uno sguardo può farmi arrossire, te lo giuro, non cerco una lite, ma la congiuntivite, non la posso soffrire. Non gettarmi la sabbia negli occhi. questo vezzo, ti giuro, è una lagna. Un altro anno ti porto in montagna, le ti aspetto con grande piacere, a gettarmi dei sassi negli occhi ti voglio vedere. E vabbè, abbiamo cominciato con un brano, come avete capito, abbastanza ironico, anni 60 sull'estate, Gino Bramieri, Non gettarmi la sabbia negli occhi, ma do anche il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro Fausto De Salvia che ci accompagna per questo speciale sulle canzoni dell'estate. Fausto, bentornato, e dici subito qualcosa su questo brano che ci fa un po' sorridere. Sì, Steven, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. E te, partiamo con un brano demenziale, o diciamo proto-demenziale, perché siamo proprio agli inizi della canzone umoristica italiana, con il celebre Gino Bramieri, quando ancora non faceva solo barzellette, perché magari per i più giovani è conosciuto soprattutto per quello, e quando invece era anche cantante. Andò addirittura a Sanremo 2 anni prima, con 2 canzoni in gara, anche se non arrivò in finale, e quindi ogni tanto usciva con un singolo, ed erano brani, come abbiamo visto, di ottimo livello. Qui il testo è di Leo Chiosso, quindi lo storico braccio destro di Boscaglione, quindi un ottimo autore, e la musica di Cichellero, che all'epoca lavorava anche col Quartetto Cetra, con Dario Fo. Quindi siamo dalla parte delle parodie, delle prese in giro anche bonarie, del fenomeno del momento. E quale migliore fenomeno del momento che le canzoni dell'estate, che erano appena esplose da 1 anno o 2. Sapore di sale, credo fosse dell'anno prima, quindi siamo proprio in tempo reale, e quindi Gino Bramieri si mette anche a prendere in giro un fenomeno del momento, le canzoni che parlano di amori sulla battigia, appunto di pugni di sabbia, in questo caso tirati negli occhi però, quindi con lo sgradevolissimo problema della congiuntivite, del collirio che praticamente fa spendere al protagonista tutti i soldi della vacanza, e con anche quest'idea, questo plot twist di spostarsi in montagna, però col risultato di ricevere i sassi negli occhi, quindi forse è anche peggio. Eh sì, forse è meglio la sabbia. Rimaniamo nel 64, rimaniamo in Italia, e sempre con un punto un po' ironico. Sulla spiaggia non si può, lei è Vanna Brosio. Oh, oh, oh, oh, oh. Bing, bong, bang, bong, la cabina non ce l'ho. Bing, bong, bang, bong, sulla spiaggia non si può. Cercami uno scoglio dove possa restare, restare sola per un attimo e potermi cambiare. Quando l'hai trovato non seguirmi, perché io t'assicuro posso fare da me. E allora bing, bong, bang, bong, la cabina non ce l'ho. Bing, bong, bang, bong, sulla spiaggia non si può. Ya, ya. Ma che caso che fa? Ya, ya. Ma che caldo che fa? Ma che caldo che fa? Ya, ya, ya. Ma che caldo che fa? E ping, pong, pong, pong, la cabina non ce l'ho. Ping, pong, pong, pong, sulla spiaggia non si può. Prendi un ombrellone a tinte scure, perché se me lo porti trasparente non va bene per me. Se non trovi niente non tornare, perché un'altra buona soluzione, credi pure, non c'è. E allora bing, bong, bong, bong, la cabina non ce l'ho. Bing, bong, bong, bong, e da casa me ne andrò. Ma che cambio che fa? Bidi, bidon, bidon, bidon, bidon, bidon, bidon, bidon. Twist scatenato, brevissimo ed ironico, Fausto. Vanna Brosio, sulla spiaggia non si può, era il 64. Sì, nello stesso anno, come appunto ci sono anche queste canzoni, diciamo, di pre-bubblegum music, no, simpatiche, spigliate. In questo caso l'argomento qual è? Il cambiarsi al mare, il problema di cambiarsi al mare quando non hai i soldi per pagarti una cabina, e quindi è un po' complicato, siamo appunto in anni in cui gli stabilimenti balneari non erano così attrezzati, e appunto cambiarsi sulla spiaggia non si può, che è uno spunto che tipo una quindicina d'anni dopo Alvaro Vitali e compagni avrebbero utilizzato per uno sketch in qualche film sul liceale in vacanza, invece appunto siamo qui 10 anni prima, sì. E rimane tutti, no, in termini più discreti, ecco. E quindi abbiamo Vanna Brosio che esordisce con questo disco, la cantante torinese che non ha mai davvero sfondato, anche se ha pubblicato dischi a ripetizione, anche ha affrontato, so, disco music, un po' tutti i generi, passati in 20 anni di carriera. Ma diciamo che poi si è dedicata soprattutto alla televisione, cinema. Televisione ha condotto anche il processo del lunedì con Biscardi, quindi un'istituzione. Ha fatto anche interviste ai calciatori, una rubrica sul Sorrisi e Canzoni, quindi comunque popolare in multidisciplinare, diciamo così. Il testo in questo caso è di Mogol, diciamo, penso scritto con la mano sinistra, non penso si sia impegnato più di 10 minuti, e le musiche di Pino Massara, che ricordiamo soprattutto per brani come Nel Sole di Albano in quegli anni, che erano un pelo più popolari. Adesso facciamo un salto in avanti alla fine del XX secolo con uno dei brani degli inizi, dei primi anni di una band che ebbe avuto molto successo, Belle and Sebastian. Quindi cambiamo anche paese, cambiamo lingua. Un brano che si titola A Summer Westing. You had the bird sing, everything will be fine. I spent the summer wasting, the time was passed so easily. But if the summer's wasted, how come that I could feel so free? I spent the summer wasting, the sky was blue beyond compare. The photograph of myself is all I have to show for 7 years of river walkways, 7 weeks of staying up all night. I spent the summer wasting, the time was passed so pleasantly. Say cheerio to birds now, the only things I'll read off faces. I spent the summer wasting under a canopy of 7 weeks of river walkways, 7 weeks of reading papers, 7 weeks of feeling guilty, 7 weeks of staying up all night. Beh, una canzone intima, dolce, che ci dà un altro sguardo sull'estate, ma Banzo, siamo in altri anni rispetto agli anni 60 e insomma, tra l'altro questa canzone è anche l'album in cui è contenuta, una storia molto particolare. Beh, sì, credo che sia uno dei più incredibili salti pindarici che abbiamo mai fatto, e siamo specializzati, come è noto, a passare da Vanna Brosio e Belle and Sebastian, però eccoci qua, siamo atterrati integri. Il brano è Summer Wasting, il titolo diciamo descrive un po' il tema del testo, che è appunto un'estate di libertà e cazzeggio, anche se è una definizione un po' prosaica considerando i toni lirici che il testo appunto ha, e che dimostrano una volta di più che nell'arte a fare la differenza è il come. Il titolo è importante non solo per il brano, ma anche per il disco dal quale è tratto, che è The Boy with the Arab Strap, che uscì nel 98 a coronamento di un inizio carriera fulminante per i Belle and Sebastian. Dalla Scozia, il primo nucleo del gruppo si forma nel 94, ma ufficialmente partono nel 96, e in 2 anni e mezzo pubblicano 3 dischi, questo è il terzo, e 3 EP. Arrivano 12esimi nelle classifiche. Però succede un piccolo casino, appunto dovuto al titolo di questo disco, The Boy with the Arab Strap, perché Arab Strap è un giocattolo sessuale praticamente, e quindi diciamo, c'è anche la title track che ripete più volte The Boy with the Arab Strap, Diciamo c'è un'intenzione? No, perché sembra, lo dice in un video YouTube, che Stuart Murdoch, il cantante del gruppo e compositore, non sapesse cosa fosse concretamente un Arab Strap, e quindi scrive una canzone intitolata così, intitola così un disco e non sa di cosa si stesse parlando. Io non vi posso spiegare di cosa si tratta, con internet si fa un attimo a trovare la soluzione all'enigma, però è interessante perché questa faccenda creò anche dissapori e confusioni, perché appunto c'era un gruppo che si chiamava Arab Strap, anche loro scozzesi, Malcolm Middleton, Aidan Moffat, e cioè, i Belle Sebastian non è che non lo sapessero, perché erano andati in tour con loro poco tempo prima, e questa cosa, questo tour sembra aver fornito l'ispirazione, però gli Arab Strap lo consideravano un po' un esempio di appropriazione, pensarono che forse Belle Sebastian si erano allargati un po' troppo, e al di là appunto del significato del titolo, ci fu anche un po' di confusione, perché alcuni fan pensarono si trattasse di un disco collaborativo, e come da ritorno. Comunque, vista la tranquillità con cui ricorda questo aneddoto nel già citato video YouTube, credo che non abbia lasciato strascichi particolarmente drammatici per una carriera che è stata trionfale. Eh sì, e adesso invece ci avviciniamo ancora di più al presente, 2019, e andiamo in Francia, anzi proprio sul confine con la Catalogna, a Perpignan, per questa La Belle Été dei Limagnanas. Brano abbia a che fare con l'estate, ce lo dice in realtà solo il titolo, perché avete sentito che è strumentale, La Belle Été Velimignanas, ho fatto fatica proprio a pronunciarlo. Fausto, parliamo di un duo da Perpignan per un brano che è parte di una colonna sonora. Sì, appunto, la colonna sonora di Le Belle Été, quindi letteralmente La Belle Estate, che è il sesto lungometraggio di Pierre Creton, un regista che in Italia non è molto conosciuto, credo che fra l'altro il film questo non sia uscito da noi, ho cercato tracce ma non ne ho trovate, o forse sarà uscito solo in qualche festival, però è un film interessante perché ci parla di un trio di protagonisti che sono Robert, Simone e Sophie, che vivono in Normandia, quindi siamo ai margini del Canale della Manica, una loro quotidianità fatta di abitudini che viene sconvolta dall'arrivo di Nessim con alcuni bambini appunto che arrivano dall'Africa, vittima ovviamente della situazione politica, e sono ovviamente profughi che hanno attraversato il Mediterraneo, sappiamo quali rischi per rifugiarsi in Francia, e quindi in Normandia, naturalmente non proprio la location ideale per una vacanza al mare, naturalmente vivono però la loro estate più bella. E quindi diciamo, questo è un po' in sintesi la trama del film. E questa è la prima colonna sonora dei degli Mignanas, che in realtà poi non è un nome d'arte, si chiamano Lionel e Marie, io le pronuncio Limignanà, perché poi i francesi vorrebbero che si pronunciasse così, non possiamo arrabbiare i francesi, quindi sono marito e moglie, vivono a Perpignan, però a questo punto non proprio in Normandia, ma all'esatto opposto, quindi siamo molto più vicini a Barcellona, e che fanno la loro prima colonna sonora con lo stile di garage pop venato, di chiavi psichedeliche, e con un tono quasi western alla fine, anche se è un film drammatico che non è assolutamente d'azione, però danno appunto questo tocco western vintage che ha davvero un suo perché. E fra l'altro vi ricordo ai nostri ascoltatori italiani che loro arrivano in Italia in autunno, quindi chi vuole andare a novembre può ascoltarsi di o Milano o Bologna, quindi approfittate. Ben fatto. Noi rimaniamo in Francia, però facciamo un salto indietro nel tempo alla prima metà degli anni Ottanta con questo brano che si intitola Un été sur la plage. Brano banzo in cui andiamo indietro nel tempo, ma in realtà che era già vintage all'epoca, perché rispolverava un po', no, uno stile anni 50, anni 60, il surf new wave, ma eravamo nel 1984 con questa band dal nome particolare Tina e Le Farlaine. Beh, sì, è un brano dell'84, era già molto retro, però gli arrangiamenti di tastiera erano molto wave, come hai sottolineato anche tu. Sì, il nome del gruppo Tina Le Farlaine è ispirato, Tina la cantante e Le Farlaine è ispirato a un modello d'auto, le Ford Farlaine, molto famose alla fine degli anni 50, quindi c'è un altro riferimento retro, abbondano, non c'è moltissimo da dire sul testo, che descrive il classico contrasto fra il grigiore della vita quotidiana e il gasamento e l'esaltazione delle vacanze, quindi una tematica molto classica delle canzoni estive, anche se la Francia ultimamente ci sta dando moltissime gioie, considerando anche la puntata scorsa che già menzionavo all'inizio. Però forse bisognerà dire qualcosa di più su Tina Le Farlane e il fatto che non c'è moltissimo da dire, Steven, perché hanno avuto una carriera brevissima. Questo è il loro unico 45 giri, uscito, come abbiamo detto, nel 1984, prodotto da un esperto del genere, Patrice Fabien, con la sua etichetta Fabien Garage. E è interessante magari sapere, vedere se c'è stato qualche prosieguo nella carriera dei membri di Tina Le Farlane, visto che loro poi hanno fatto solo questo singolo. E Tina Cartier, o Tina, non lo so, cercò la strada solista con due singoli fra l'85 e l'86 e non si sa molto altro, mentre invece il batterista Denis Baudrillard in seguito parteciperà alle attività di molti gruppi della scena alternativa, arrivando ai giorni nostri, quindi qualcuno, diciamo, che è riuscito a continuare. E comunque, anche se si è trattato di una meteora, questo è un brano veramente delizioso, secondo me. Eh sì, e La mia vita a Parigi non è altro che un brutto sogno, tradotto quello che canta Tina Le Farlane in questo brano. Sto vivendo da sveglia, ma finalmente sta per finire, soffrire un anno intero in attesa dell'estate. Beh, poi detto con questo caldo, insomma, non possiamo che sottoscrivere. Rimaniamo negli anni Ottanta, proprio all'inizio del decennio, però passiamo le Alpi e andiamo in Italia con un brano che ha qualcosa a che fare anche nello stile, adesso lo capirete il perché. Parliamo di questa Pupa di Ivan Cattaneo. Shit. vabbè, insomma, qui torniamo ai primi anni 80, però con un revival un po' che cercava di rivisitare i classici del pop rock anni 60. Il progetto infatti di Ivan Cattaneo era, si chiamava Italian Graffiati, sempre con molta ironia, come abbiamo ascoltato anche nel testo. Fausto, raccontaci qualcosa di questa pupa 1980. Beh sì, siamo un anno prima di Italian Graffiati, quando ancora Ivan Cattaneo era conosciuto per i suoi brani originali, aveva già scritto 3 album, questo è il suo 4 in pochi anni, era davvero molto prolifico. Solo dopo, per il grande pubblico, diventerà quello che ricanta il Jegegé in versione New Wave, ecco, quindi sarà una cosa successiva. Qui c'è comunque un'attenzione appunto alla sonorità del passato, in questo caso l'ispirazione è quella del glam rock, quindi diciamo ovviamente quindi quella di pochi anni prima, del primo David Bowie, però mescolata con riferimenti naturalmente, in questo caso alla satira, perché Pupa è una satira del pappagallismo italico, con questo protagonista che al mare si atteggia a Novello Casanova, oppure Porfirio Rubirosa, non parliamo del capo dei dadaisti ovviamente, parliamo di quello originale, che però alla fine della fiera gioca a biliardo a Basport e fa l'amore su una Fiat, e che invece che andare a Saint-Tropez, lui al mare va a Ostia, Fregene, Rimini e Riccione, come recita questo riuscito ritornello. Quindi ecco, è una satira naturalmente di Ivan Cattaneo, che fra l'altro in questo album presenta anche Police X, che diventerà forse il suo brano simbolo. Ecco, quindi abbiamo questo gioco fra l'italiano e l'inglese, mescolati con giochi di parole, linguistici, citazioni che, se ci pensiamo, in un certo senso non sono poi tanto lontani da quello che in quegli stessi anni faceva Franco Battiato. Disco tra l'altro prodotto da Nanni Ricordi e con gli arrangiamenti di Tony Mims, che aveva già accompagnato, insomma era stato a fianco di artisti come De André, Celentano, Mio Martini, Mina, Baglioni. Insomma, è bello riscoprire anche questo Ivan Cattaneo. Noi adesso andiamo avanti, però in realtà andiamo avanti di pochi anni, perché rimaniamo nei primi anni 80, sempre in Italia, con Sere d'agosto, Giuni Russo, era il 1983. Tua compagnia, l'aria triste di chi pensa altrove, immaginando i tuoi pensieri, il tempo vola via, consumerai la tua energia solo sui simboli. Que cada uno E vabbè, qui Banzo, io so che tu stai applaudendo con le orecchie perché ami molto Juni Russo. Tra l'altro questo disco, comincio subito da qui, ha un titolo che adesso in Spagna sarebbe un po' ambiguo, Vox. Cacchio Steven, mi hai fregato la battuta. volevo dire, brano tratto dall'album Vox, quando ancora era soltanto un lemma latino e non era stato cooptato dalle destre di tutto il mondo. Vabbè, il bello della spontaneità. Sì, ho detto il titolo del disco dal quale è tratto il brano? Sì, credo di sì. Sì, io, vabbè, diciamo che è un po' uno degli stereotipi di Baldone, il mio sperticarmi in lodi per Juni Russo e per la produzione di Battiato della sua Factory dei primi anni Ottanta, però anche riascoltando questo brano, era un'idea di pop che era possibile, per alcuni anni è stata realtà, e poi adesso pensa cos'è la musica pop. Se ci fosse un'idea di pop che assomiglia a questa, io sarei più felice. Comunque, Juni Russo, diciamo, Juni Russo e Canzoni d'Estate è un po' uno stereotipo, perché c'è ovviamente l'elefante nella stanza, che è Un'estate al mare, che rimane il suo brano più famoso. E questo, in effetti, questa sera d'agosto nasce un po' all'ombra di quel successo, perché la CGD nell'83 decide di mandare Juni Russo al Festival Bar cercando di bissare il colpaccio dell'anno precedente, e nonostante i buoni riscontri, poi non, diciamo che non ce la faranno, e in effetti il brano non è ricordatissimo al giorno d'oggi. Vero. E al di là del titolo, che poi col tempo ha assunto connotazioni funeste, come dicevamo, sull'immediato questo, diciamo, successo relativo o parziale insuccesso portò a dissapori fra Juni Russo e Caterina Caselli, che era la sua discografica, e tutto ciò sfocerà in una rottura l'anno dopo. Comunque, visto che avevo citato anche la Factory di Battiato, mi sembra bello concludere ricordando un po' chi ha lavorato a questo album, il cui titolo lo ricorderò per la quinta volta, perché c'è, vabbè, Battiato non si occupa più della produzione diretta, però appare come coautore di un paio di testi. C'è Giusto Pio, come autore delle musiche, coautore delle musiche in un paio di casi. Poi abbiamo Radius alle chitarre. Insomma, io direi che il finale di chitarra era talmente confondibile di questo brano che si riconosceva anche senza saperlo. Roberto Cacciappaia agli arrangiamenti, e poi Francesco Messina, che è coautore di questo brano. Quindi, se Battiato, diciamo, c'è in modo limitato come presenza diretta, sì, c'è comunque tutto il suo gruppo di collaboratori, e lo stile è quello. Andiamo agli anni 90 con una cover in realtà che ci riporta indietro agli anni 60, perché è una cover dei Beach Boys. Parliamo dei Fuzzy con questa Girl Don't Tell Me, eccola qua. Your hair's getting long. Vabbè, sound molto 90s, Fausto, però in realtà qui facciamo anche noi un omaggio a un grandissimo artista che non abbiamo ancora ricordato a dovere a Zibaldone, che è Brian Wilson, che ci ha lasciato ad 80 anni poco fa, il leader, il pilastro dei Beach Boys. Sì, Steven, oggi è esattamente un mese dalla scomparsa di Brian Wilson. È stato uno dei più grandi geni della musica pop mondiale, lo sappiamo. Ovviamente è ricordato soprattutto per i suoi Beach Boys, e i Beach Boys hanno rappresentato questo ideale di una estate senza fine, trascorsa sulle spiagge della California, fra surf, auto potenti, primi amori, quindi tutto un immaginario che ci sta benissimo con le canzoni dell'estate. In questo caso, Girl Don't Tell Me parla di un incontro estivo, un incontro a un anno di distanza da una breve storia d'amore che non ha avuto seguito. Infatti il testo dice: ragazza, non dirmi che mi scriverai ancora anche questa volta. Infatti, e questo è il brano che abbiamo scelto, che musicalmente in originale era un po' una risposta di Wilson a Ticket to Ride, e c'era questa rivalità artistica con i Beatles ai massimi livelli, raggiungerà poi l'apice con Pet Sound e con il famoso album Perduto Smile che Brian Wilson riuscirà a pubblicare solo penso 30 anni dopo, quasi 40 anni dopo. E la canzone ha un grande successo in America, ne escono tantissime cover, addirittura anche in Italia la incidono i Nomadi, però Tony Verona scrive un testo che non c'entra nulla, come spesso capita con l'originale, parla della vita beatnik in giro per il mondo, appunto si chiama La mia libertà, e non parla di amori estivi sulla spiaggia. Invece quella che proponiamo è una cover appunto anni 90, fedele anche nell'arrangiamento, però con queste belle chitarre più potenti, ed è opera di The Fuzzy, questa band indie pop rock di Boston, siamo dalla parte opposta della California, che era guidata dalle chitarriste cantanti Ilka Mancini e Chris Tappen, con la seconda che in questo caso canta il brano, e non modifica il genere, una particolarità, infatti si rivolge a una girl, essendo girl lei stessa, ecco. E faceva parte del loro secondo album, loro ne hanno fatti tre in tutto, non hanno avuto una carriera lunghissima, che era Electric Jazz. Eh sì, comunque insomma, bello ricordare in ogni caso Brian Wilson, forse dovremmo farlo nella nuova stagione di Zibaldone dopo l'estate. E noi adesso ci avviciniamo davvero al presente, perché è una canzone uscita in questo 2025 di una band che immagino molti non conosciate, Ada Oda, si intitola Figlia d'Europa, sentitela qua. Centro, sempre più autenticità, sfugge al flusso turistico. Mangio questo zero. Una vera figlia d'Europa. Ma è molto bello questo brano, una bella scoperta. Fausto, dici qualcosa sugli Ada Oda? Sì, poi la pronuncia forse dovrebbe essere Ada Oda, perché si riferisce a un'espressione dello slang italo-americano. Quindi un'Ada Oda sarebbe un'altra volta, cioè another, no? Quindi modo sì, per dire un'altra volta in slang. E perché? Perché è proprio un incontro fra diverse culture. In questo caso abbiamo una cantante che canta in italiano, ma che italiano non sa cantare, non sa parlare ovviamente, perché è figlia di un palermitano immigrato in Belgio negli anni 50. Parliamo di Vittoria Barracato, che appunto è stata coinvolta qualche anno fa dal chitarrista César Lalou, che scrive tutti i brani, e appunto col fatto che lei conosceva tre parole in italiano, comunque riusciva un po' a pronunciarlo, il chitarrista ha avuto l'idea di un gruppo che unisse il post-punk anni 80 alle melodie della canzone italiana, citando un po' anche sempre gli anni 80, ed è nato questo mix. Hanno fatto due album, e quindi stranamente noi generalmente questi monografici non mettiamo brani recentissimi, però ci è sembrata una bella cosa, anche perché loro si sono sciolti a gennaio, e quindi effettivamente non avremo modo di vedere altri album degli Ada Oda. Qui abbiamo con questo brano Figlie d'Europa, questa appunto vacanza estiva interminabile in giro da Glasgow fino al Kosovo, quindi proprio un'Europa unita in questo caso, alla ricerca dell'autenticità in un mondo che invece sembra essere sempre più privo. E c'è anche un featuring vocale, i nostri ascoltatori l'avranno sentito, di un vero italiano, perché è Ale Sportelli, il tecnico del suono, ingegnere, produttore, che per anni ha lavorato con i Zen Circus, nel cui studio di Pisa gli Ada Oda hanno registrato l'album. Quindi abbiamo questo featuring estemporaneo che dà un tocco naif, ecco. Bella scoperta. Fausto, grazie davvero di essere stato con noi come sempre. Ti auguro buona estate, e ovviamente ci ritroviamo a settembre per una nuova stagione di Zibaldone. Certo, con nuove ultimissime, nuovi monografici e tante nuove idee. A presto, buone vacanze a tutti. Un abbraccio, Fausto. Noi continuiamo, in realtà torniamo indietro negli anni 90, che insomma abbiamo ascoltato già un po' di cose anni 90, e troviamo anche questo brano che è una piccola perla, perché è il primo brano in assoluto dei Pavement, si intitola Summer Babe. Summer Bay Banzo, però in realtà il titolo poi ha anche un sottotitolo che è Winter Version. Era il 1992 per questo brano dei Pavement. Sì, allora dipende dalla versione, perché come giustamente dicevi fu il loro primo singolo e nel 91 esce appunto come singolo senza il sottotitolo, poi riappare come brano d'apertura di Slanted and Enchanted, il loro brano album d'esordio del 92 con il sottotitolo. Quindi sì, ci sono due versioni leggermente diverse a livello di sound. E una cosa curiosa è che in una delle tremende, ineffabili classifiche di Rolling Stone, non il gruppo ovviamente, costantemente riaggiornate, riattualizzate, quella delle migliori 500 canzoni di tutti i tempi, cioè vabbè, una cosa che non so da che parte prendere, nella versione del 2024 Summer Babe occupa un dignitosissimo 244esimo posto nel gruppone, che non è male perché significa che la critica riconosce l'importanza dei Pavement, e visto che erano il gruppo che diciamo era stato apostrofato da Mark E. Smith dei Fall, loro grandissima influenza, come dei plagiari senza speranza, Mark E. Smith diceva vabbè ci copiavano come suonavamo negli anni metà anni 80, sì. Beh, ne hanno fatta di strada, sono un gruppo leggendario. E comunque io non mi capacito delle classifiche dei Rolling Stone, non so se si era capito. Comunque vi chiederete, Summer Baby in che senso? Ma i testi di Steven Malkmus non si capiscono, sono stream of consciousness molto ermetici. Si capisce che non vanno presi troppo sul serio, ma sul significato non vi so dire moltissimo. Ascolta, siamo davvero agli sgoccioli. Chiudiamo con un bel brano, 1974, Summer Madness, Cool and the Gang, una band storica, non abbiamo tempo di raccontare tutto quello che hanno fatto. Questo brano però è uno forse dei pilastri, forse, e tra l'altro dei più, che ci sono più versioni su questo brano nella storia, no? Beh sì, no, su Cool and the Gang potremmo dire probabilmente che sono attivi da 61 anni con un membro ancora presente in tutte le formazioni, lo stesso Cool, Robert Bell, bassista e backing vocalist, cominciano giovanissimi, se no non si spiega. Beh, in realtà sì, non il brano con più cover, ma con più campioni, con più campionamenti, 145 campionamenti fino al 2018, ho trovato su internet, quindi non so, forse in questi 7 anni il numero è aumentato ulteriormente. Beh, lo sentirete, è un classico della musica black, se non la conoscete già. Potremmo dire anche a livello di aneddoti simpatici che poco dopo l'uscita, perché è un brano del 74, uscito nel loro quinto album, World of Lights, no, mi sono sbagliato, Light of Words, appare nel 76 nel primo storico Rocky in sottofondo in una scena. Noi ce lo andiamo a sentire allora, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17.56, diceva tutti venerdì. Ma tu lo sai che alla fine della fiera Luglio di Riccardo del Turco è stata in testa alle classifiche per soltanto 2 settimane? Io avrei detto 2 mesi. Vabbè, ma noi la mandiamo in onda ogni anno. Ragazzi, ci ritroviamo a settembre, buona estate, e noi sempre qui al Piede Cagnone, a Zibaldone, Radio Contrabbanda. Ciao Banzo, state bene e divertitevi, perché insomma di questi tempi ce n'è proprio bisogno. Summer Madness, Cool and the Gang, erano gli anni 70 e noi ce li riascoltiamo per goderci un po' di black music.